cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parte Giovinco con il destro, pallone teso! 1-0 Juve! Sono passati appena 5 minuti, la Juventus in vantaggio. Finisce in rete e sono 4. Poker Juventus, Paul Pogba, 54esimo minuto, 4-0. Pallone fuori per Coman, lo insegue da quella parte Martic, prova ad allungare la faccata del francese, va via bene, cambia passo, cambia direzione, potrebbe andare al tiro, lo ottiene! Che gol! Pazzesco! Pazzesco! Grandissimo gol di Coman all'incrocio dei pali. 6-1, cappotto. Vediamo, durante le fasi di mercato ci sono tantissime voci. Giovinco è un giocatore della Juventus, non è mai stato messo sul mercato e quindi poi ci sono dei giocatori che giocano di meno e che hanno la voglia di andare altrove per andare a giocare, ma credo che questo non sia nella testa di Giovinco. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Feronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. La Juve cannibale si mangia anche il Verona in Coppa Italia, pensando al Verona che li dovrà tornare domenica per il campionato. Anche la Juventus B dunque fa paura, specie se Pogba fa ancora il fenomeno. Sensazione che quasi non vogliono farsi scappare un minuto di Pogba, perché magari l'anno prossimo non lo vedranno più, non lo so, la sensazione può essere questa. Poi intorno a Pogba danzano Giovinco, danza Coman con un gol strepitoso. Pierluigi Pardo, ciao! Ciao, come va? Benissimo, ti fa più impressione vedere questo 6-1 alla Juventus B che domina anche in Coppa Italia o vedere uno stadio tutto esaurito in Coppa Italia? Perché la seconda che ho detto a me ha fatto parecchia impressione. Due ottime notizie, una soprattutto per la Juve, l'altra per la Juve un po' per tutto il calcio italiano. Io penso che l'abbiamo detto, insomma, forse non è neanche un caso che i successi di questa nuova Juve in qualche modo siano coincisi col nuovo stadio. Questo è uno stadio costruito per vincere, è uno stadio che rappresenta un valore aggiunto e che ha una percentuale di riempimento più alta degli stadi delle altre squadre, dovuta al fatto che è più piccolo, che è più comodo e che la Juve spesso in quello stadio quasi sempre vince. C'è la sensazione che quasi si voglia andare a vedere lo stadio. No, vado a vedere lo stadio della Juventus. C'è anche questa forma di turismo che però sinceramente è una cosa molto sana, nel senso che poi al Camp Nou o al Bernabeu ci sono i musei dentro, no? C'è la gente che va a fare gli appassionati di calcio che vanno a Barcellona, vanno a vedere la Sagrada Famiglia, vanno al Montjuic e poi si fanno pure un salto senza alcun dubbio al Camp Nou. Quindi c'è anche questa componente. La Coppa Italia è una competizione secondo me ristrutturata bene negli ultimi anni e le sfide che stanno per arrivare sono molto interessanti e per quanto riguarda l'aspetto tecnico, insomma, è la sensazione che anche il lato B della Juve sta molto bene. Sì. E si potrebbe anche azzardare, ma insomma serviranno un paio di verifiche che il peggio sia alle spalle, che quella mini flessione bianconera sia alle spalle. Però aspettiamo ovviamente queste due partite che sono decisive. Queste due partite io mi aspetto che la Juve faccia 6 punti con Verona e Chievo e secondo me la vera domanda è capire se la Roma farà 6 punti. Se la Roma farà 6 punti, se riuscirà a rimanere in scia, poi secondo me avrà superato un banco di prova fondamentale. Sì. Tanto appena parlato Garcia, che ha ripetuto: non ho cambiato idea rispetto a quello che avevo quella che avevo espresso 2 mesi fa. Vinceremo lo scudetto, dice Garcia, che per quanto riguarda destro, blindato, è un nostro attaccante, conto su di lui per tutta la seconda parte della stagione, eccetera eccetera. Di tutto questo parleremo, ma Pierluigi, sai che ieri è arrivata una domanda che era anche per te. Ho una domanda per te, non io, sì, un nostro ascoltatore da Napoli. Io vorrei dire a voi giornalisti, uomini di cultura, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Io per la mia parte ho risposto. Io non sono sicuro che sia Tarocca, ma insomma sai, io alla fine di ogni puntata, quando nelle puntate calde, alla fine di ogni puntata calda dopo episodi arbitrali, purtroppo spesso ce ne sono tanti, ricevo tutta una serie di una serie di persone che mi dicono: ma la vergogna, ma come fai a far parlare Mughini, è una vergogna, come fai a far parlare Auriemma o Liguori, eccetera. Quindi il punto di vista dei tifosi è un punto di vista per sua definizione sempre e comunque partigiano, nel senso più profondo e in fondo anche più romantico del termine. A me, ribadisco, non sembra un campionato taroccato, mi sembra un campionato dove ci sono degli errori arbitrali, dove secondo me ci sono stati degli errori in Juve-Roma, che ha avuto chiaramente un peso importante, perché le due squadre erano arrivate a quota 15, quindi erano alla pari, a punteggio pieno. Quella partita può aver indirizzato in qualche modo qualche umore e un po' di psicologia nel campionato, poi c'era la pausa, vi ricorderete, cioè. Poi c'è stata una serie di partite nelle quali però altrettanto va detto la Roma secondo me non è stata certamente sfortunata con gli arbitri, c'è stato questo episodio di Napoli-Juve, che è un episodio sicuramente che pesa, insomma. Non abbiamo il quadernetto, Pierluigi, non ce l'abbiamo, quello che ribadisco sempre, cioè io non vedo un vento da una parte o dall'altra, perché vedo semmai un vento che di settimana in settimana cambia. Noi abbiamo fatto mezz'ora di discussione su Udinese-Roma, sul pallone dentro, fuori e calcio di rigore, e 5 giorni, quindi di un presunto favore arbitrale alla Roma, e 5 giorni dopo abbiamo fatto mezz'ora di discussione su un presunto favore arbitrale alla Juve. Allora si mettessero d'accordo, insomma, su decidere, e questo mi sembra abbastanza inconfutabile, No, è chiaro, lo è. Tanto adesso abbiamo il traffico, però poi parleremo subito dopo di mercato possibile o impossibile con Ferrero, che ci ripensa su Muriel, attenzione, perché ha detto: no, adesso lo voglio, vediamo, non è ancora detto che vada via. Intanto aspetta Eto'o, ed è praticamente ufficiale l'arrivo di Eto'o a Genova, lo ha detto anche il suo procuratore. Poi c'è Fernando Torres, che passa la sua notte magica a Madrid. C'è, e più tardi parleremo anche di Elena Fanchini, che invece nello sci passa la sua mattina ancora più magica a Cortina. Tutto questo in 2 ore di Tutti Convocati. Traffico. Pardo, sei un grande, però sei un po' paraculo, te lo dico io. Ancora sulla corsa per Lichtsteiner, Lichtsteiner in vantaggio, pallone nel mucchio, e c'è la doppietta di Giovinco. Sono tre, in pieno recupero del primo tempo, doppietta di Giovinco, 3-0 Juve. Dunque Giovinco che torna principino in Coppa Italia, non credo però sia la dimensione che Giovinco sogni, insomma, né lui né i suoi procuratori. È sul mercato, anche se pure qui parole di circostanze di Allegri che abbiamo già sentito, non è mai stato messo sul mercato, ma no, come no, è stato accostato a una dozzina di squadre. Credo che non... strano, perché la Juventus un giocatore con le sue caratteristiche lo sta cercando col lanternino, Pier? Beh, forse non proprio con le sue caratteristiche. Io credo che sia... un trequartista, Giovinco seconda punta, sì, qui c'è una dinamica di mercato abbastanza semplice, abbastanza chiara, nel senso che poi c'è anche una scadenza di mercato, c'è il tentativo legittimo da parte del giocatore di monetizzare. Sappiamo bene che quando un giocatore è in scadenza chiaramente ha un vantaggio oggettivo, insomma costa meno, nel senso che praticamente non c'è il costo del cartellino, e quindi questo costo inferiore lo può monetizzare con un ingaggio più alto, insomma, mediamente è un gioco che ci sta, non c'è niente di clamoroso o di malato, è qualcosa di difficile da accettare quando ci sono delle grandi storie d'amore tra un giocatore e una società, ma qui mi sembra che insomma l'amore si sia un po' dissolto col tempo, proprio perché l'hai mai visto sto amore? No, vabbè, però sto grande amore, la storia di un grande amore io mica l'ho mai vista, tra Giovinco e la Juventus. No, però insomma, comunque stiamo parlando del ragazzo di Beinasco, prodotto il vivaio, però insomma, di tempo ne è passato, ha trovato talmente poco spazio. No, ma guardate, io penso che... Senti, lo chiediamo ad Andrea D'Amico, che è il suo procuratore. Chiediamolo a lui. Dove va Giovinco? Andrea D'Amico, 2 punti. Buongiorno. Guarda, ero estasiato nel sentire la disamina di Pierluigi, perché oltre che essere un grande presentatore, conduttore, imitatore, è veramente un tecnico sopraffino. No, dove va? Allora, D'Amico 2 punti, Giovinco va dove? Pardo parla di Cassano, subito spuntano i titoli su qualunque sito web. No, Pardo 2 punti, sono, Cassano non al vorrei, Torino. Vorrei che passasse. Oddio, economicamente potrebbe essere interessante diventare l'agente di Cassano, però non lo so. D'Amico Giovinco, la gente di Giovinco. Giovinco due punti, va a? No, Giovinco è un giocatore della Juve, quindi a fine anno valuterà i progetti più interessanti. Questo è il suo pensiero, il suo desiderio, quindi per ora non va da nessuna parte. Se mi consola, non va da nessuna parte. No, ma questo, scusa, posso tradurre? Questa è la traduzione, adesso vediamo se sono bravo con l'esperto di mercato. D'Amico ci sta dicendo quello che Giovinco vuole, cioè Giovinco che è in scadenza e che quindi dal primo febbraio può accasarsi per la prossima stagione a parametro zero, in questo momento diciamo che vuole giocarsela alla Juve. Vuole giocarsela alla Juve, nel senso non vuole dare alla Juve, la Juve vorrebbe venderlo per monetizzare qualcosa adesso, giusto? E Giovinco legittimamente invece rifiuta, o comunque insomma non è particolarmente da quello che ha detto Allegri ieri sera, non è sul mercato, quindi ha detto che ne ha bisogno fino alla fine, perché comunque non dimentichiamoci che la Juve deve vincere. A me sembra già incredibile che lui non giochi con continuità di più, però insomma no, questo ormai è un dato già passato. Però vediamo il mercato in cambiamento minuto dopo minuto, però penso che questa che ha detto Pierluigi sia effettivamente la soluzione più probabile. Questo, bravo Pardo, ci hai beccato. Lui ogni tanto ha a che fare col calcio. Qualche volta ha a che fare col calcio, molto più spesso ha a che fare con la geometria, con Mughini, con l'algebra, con l'aritmetica e con altre materie sconosciute. Non amo da matti il mercato, ma sicuramente meglio il mercato della Moviola. Non c'è discussione su questo. Cioè, penso che su questo tutti possiamo essere tutti d'accordo in maniera plebiscitaria. Posso dirvi una cosa? Mercato è il sabato del villaggio. Bravo, ormai Andrea. Per chi si ricorda le poesie di Leopardi, è quasi più importante il sabato che anticipa la festa, il giorno di festa, che non l'evento sportivo, perché di mercato parli tutto l'anno a prescindere poi dal risultato. E quindi è diventato veramente la cosa più interessante, più anche gli stessi ragazzi che seguono gli eventi calcistici sono molto più interessati alle trattative, che sono delle sfide già. Andrea D'Amico, questo è sacrosanto. Andrea D'Amico. Poi insomma, bravissimo. Radio 24. Sono le 24 ore, transazioni, economia, il mercato è di casa. Questo è sacrosanto, caro Andrea D'Amico. Ormai il calcio per molti, soprattutto per i ragazzini, è passato in secondo piano, molto più interessante e intrigante il mercato anche virtuale, anche con i giochini, eccetera, eccetera. Ma sai perché? Certo. Perché questa è l'ultima frontiera di quello che non vediamo. Adesso vediamo tutto, ogni partita, l'intervallo, gli spogliatoi, cosa c'è nelle mutande dei giocatori. Sono un po' attonito, perché ogni tanto arrivo a casa e mio figlio mi dice: papà, mi occorrono 20 milioni di euro, ma per far cosa? No, devo comprare la PlayStation Cristiano Ronaldo. No, va, compriamo che c'è Caracciolo che forse viene via, che quell'altro così costano di meno. Sì, ma giochiamo alla PlayStation. Criscito prima o poi torna? Insomma, prima o poi tornano tutti, adesso non torna, quindi non si muove neanche lui. Abate resta dov'è? Penso che rinnoverà col Milan, quindi tutti, non si muove nessuno. Pardo, siamo rovinati, ragazzi. Ma chi se ne prende? Esatto. No, sto un attimo riflettendo sull'impatto nella mia vita di queste notizie. Che ma pure cosa sono... Dai, devi fare il fenomeno così, Pierluigi. Cioè, il mercato è dentro di te ormai, ti possiede. No, ma il mercato funziona. In questo momento ci sono, credo, tre programmi dedicati al mercato. Ci sono gli amici di Sky che hanno aggiunto l'originale proprio perché volevano marcare il fatto che sono stati i primi. Poi c'è Mediaset, gli etero, loro sono gli etero. Se ci sono tre programmi, se ci sono siti che hanno la parola, contengono la parola parola mercato e che lavorano 365 giorni all'anno, e ce ne sono almeno due, credo, forse addirittura tre siti che contengono la parola mercato, vuol dire che la cosa, l'argomento tira, insomma, no? Ecco, quindi esatto. Non ci sono. Ma poi sai, questo ha notato, ha provocato un'inflazione incredibile di una categoria professionale, il giornalismo. Cioè adesso chiunque ha un computer e si dedica comunque dedica un po' di tempo a farti una domanda o un'altra, è di fatto un giornalista. Uh-huh. Per cui, sì, vero. Una volta dici, ma sai, ti chiama Pecantini piuttosto che, poi sono un po' anche Oreggia, ti chiama, adesso cioè ti chiamano in milioni di persone, dice no, sono di giornalista, sì, di questo, cioè è tutto, è diventato giornalismo virtuale. No, cui... ed è anche più democratico, nel senso, lo dico con rispetto, ma chiaramente viene richiesta meno qualità di scrittura, cioè il giornalista di mercato, poi ce ne sono, chiaramente ci sono giornalisti di mercato che scrivono benissimo, ci mancherebbe altro, no? Però è chiaro che il loro core business non è la qualità dei pezzi che scrivono, ma è il fatto di avere notizie, informazioni, rapporti, e la notizia appunto democraticamente ce la può avere anche il passante per strada che assiste a una telefonata. I tassisti sono una fonte inesauribile, di notizie. O il ragazzo volenteroso che comincia questo mestiere, e quindi va benissimo tutto. Io non ho una passione per il mercato clamorosa, nel senso, a me piace la partita, il pallone, questo mi piace quando c'è il calcio d'inizio, l'idea di raccontare un incontro che si svolge da Giannino o a Lilton mi piace di meno. Senti, però poi è chiaro che il mercato, tutti viviamo di mercato. Ma Roberto da Roma, che cosa vorrà chiedere? Pronto, dica. Eccoci qua. Allora, volevo invece dire qualcosa sul campionato della Roma. Sì. Ecco, e nel senso che Pierluigi mi può essere di aiuto perché mi sembra romano, sì, e quindi chiaramente io direi... Leggero accento, sì. È di chiaro accento, e qui c'entra i vari motti che dice Garcia, uno glielo direi io, che è quello che mi sembra che gli manchi un soldo per fare una lira. E voglio dire questo, che quando si deve trattare di vedere come è brava la Roma, adesso deve dimostrare qualcosa, guarda Sassuolo, guarda Milan, guarda l'ultima partita, la Lazio, non riesce poi a concretizzare quello che lui vorrebbe, cioè è come qualcuno che ha, ecco, il soldo per fare una lira, cioè è sempre pronta lì, ma poi... ma la Juventus ha un paio di soldi in più, non è che ne ha... Ecco, sì, ma i soldi qui stanno per significare qualcosa che non è soltanto moneta, ma è... Sì, è chiaro, ma qualcosa... le manca la vittoria nella grande partita, le manca la vittoria della svolta forse, esatto, definitiva, le manca questo, le manca anche onestamente qualche giocatore. E allora, aspetti Roberto, e allora io chiedo ad Andrea D'Amico quale giocatore potrebbe andare alla Roma secondo lui, così a occhio. Ma io penso che la Roma faccia qualcosa davanti, perché comunque la vedo molto organizzata, un centrocampo fantastico a livello di qualità, questo super campione come Totti davanti, magari c'è questo falso 9 come ormai è di moda dire, ma penso che possa fare qualcosa. E poi vedo le prestazioni, insomma, di Maicon abbastanza alternanti, per così dire, per cui penso che siano i due reparti dove possono intervenire per cercare di rafforzare la squadra. Ma qualcuno più destro o qualcuno al posto di destro secondo te? Ma dipende sempre anche dalle alternative, perché a volte nel mercato si creano delle occasioni dove puoi scambiare uno per un altro. Io penso qualcuno al posto di destro in questo momento, che mi sembra più che altro subire l'impatto psicologico di essere una grande squadra. Io penso che quando tu arrivi in un grande stadio, un grande club, puoi avere anche delle grandissime qualità, questa naturalmente è una sensazione esterna alla mia, ma devi avere la grande personalità per tenere lo stadio. Io ad esempio in 25 anni di carriera ho avuto la possibilità di lavorare per dei grandissimi calciatori che però avevano delle personalità che non tenevano i grandi stadi, quindi quando andavano nel grande stadio con la maglia pesante non riuscivano a rendere come potevano rendere con una maglia diversa, e potremmo fare mille esempi, non so, di Natale, piuttosto che a un livello più basso Caracciolo, sono dei super nelle loro squadre, fuori da quel contesto lì fanno difficoltà. Ma lo stesso Donati, che nel 2000 era il centrocampista più importante, pagato 20 miliardi all'ora di lire dal Milan, probabilmente grande giocatore, è arrivato a San Siro e non riusciva a tenere San Siro. Quindi penso che il gap è spesse volte psicologico. Poi è arrivato Gattuso e ha frantumato San Siro, magari sì, con meno qualità di altri. Sì, ma ne aveva diverse di qualità Gattuso che gli stavano dentro, no, gli stavano nell'anima, eccetera. Andrea, più mentale, più mentale, certamente, certamente. Grazie Andrea, buon lavoro. Vi abbraccio, ciao Andrea, ciao, d'amico, ciao. Alessandro da Pordenone, Pardo risponde, poi c'è la borsa. Alessandro, sì, dica. Buongiorno a voi, grazie della convocazione. Volevo riportare un po' indietro il commento sulle geometrie del campo, facendo una riflessione molto semplice, che mettendosi al posto dell'arbitro niente è facile. Arbitrare, soprattutto alle velocità della Serie A, non è per niente facile prendere decisioni. Io spesso guardo le partite senza audio e non è facile giudicare. Questo è, mi sembra abbastanza. Sì, sì, ma questo è verissimo. Questo è verissimo. La sproporzione, no? Di mezzi che esiste fra noi che commentiamo, rivediamo, andiamo frame by frame, scomponiamo le immagini con 16 telecamere e invece la difficoltà, la necessità dell'arbitro di dover decidere in tempo reale, questa è una cosa che va ricordata sempre, perché è un elemento culturale, soprattutto, lo ribadisco, in stagioni come queste, lo ribadisco, nelle quali ci troviamo a commentare spesso episodi arbitrali, ma non tutti sempre dalla stessa parte, no? Al massimo ribadisco, semmai possiamo discutere sul fatto che le squadre un po' più forti, e in questo hanno ragione quando si lamentano i tifosi delle piccole, magari hanno qualcosa in più. Ma in assoluto, ribadisco, io un vento non lo vedo né da una parte né dall'altra. Vedo tanti episodi, vedo tanti errori, vedo le partite che potevano girare. Sicuramente l'altro giorno a Napoli si sono arrabbiati perché pensavano che quel tipo di partita potesse in qualche modo essere condizionata da quell'episodio lì. Il fatto è che il campionato taroccato non esiste, diciamoci la verità. 800240024 borsa, torniamo. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Sentire che lui non è riuscito a conquistare un posto significa magari che proprio lui si rende conto che è in una fase della sua carriera molto complicata. Sì, sì, questo è quello che pensi te, insomma, Torres fino a due partite fa ha sempre giocato, poi può capitare che avendo anche Pazzini e Niang, un allenatore, provi anche altre soluzioni. Adesso tocca a Torres. Allora questa, hai detto tutto te. Ok. Con Torres, insomma, ci siamo lasciati nel migliore dei modi, purtroppo non sempre tutte le cose vanno come dovrebbero andare, anzi Torres ha mandato un bellissimo messaggio a me e a tutto lo staff, che poi vi faremo avere, perché penso che questo dimostri, insomma, il suo comportamento, che è sempre stato professionale. Solo la nota del principino Giovinco, ma anche de El Niño, che è tornato in questo derby di Coppa del Rey Real Atletico Madrid, ha segnato addirittura doppietta, primo gol dopo 20 secondi. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao. Buon pomeriggio. Che il succede? Il prodigo. Il figlio al prodigo. Buenos días, Filippo. Ha vuelto a su casa. Ha vuelto, ha vuelto. Allora, qui, allora, io già che non ha vinto il pallone d'oro degli allenatori Simeone, già è uno scandalo, però dovrebbero fare forse una seconda votazione dopo l'ennesimo miracolo, perché comunque vada anche il se concorso dei maghi puoi vincere, esatto, eh? Anche se non segnerà mai più, qualsiasi cosa succeda, questi due cose saranno lì per sempre. Cioè, è una cosa, Simeone, non lo so, che abbiamo finito le parole per così raccontare quello che riesce a fare con giocatori che non erano nessuno, o erano considerati finiti, o addirittura già però scusate, come ho twittato ieri sera, è anche normale, insomma, è cambiato il livello, cioè gli scarti del nostro campionato poi magari vanno in dei campionati minori, certo, esatto, il calcio che conta, no? Tu cerchi le frecce. Beh, io ho fatto questo tweet e un po' di gente mi ha detto: ma sei sicuro? Ma che? Ma non è vero, eh? Era abbastanza chiara l'idarità, ecco. In fondo il povero Torres era riuscito a segnare solo all'Empoli, e invece qua ha fatto due gol al Real Madrid. Poi non l'ha portata a casa perché Ramos e Ronaldo sono cattivi come il Pepe. La vittoria, però la cosa più bella è che poi il resto della partita ha giocato nemmeno male, quasi non ha giocato. La cosa è stata una partita assurda quella di Torres, perché vederlo poi correre era un po' sgraziato, non arrivava. A parte una partita difficile perché è stato un assedio diciamo da parte del Real Madrid, quindi complicato e tutto, però la sua partita non era certo eccetera. Però i due gol sono anche belli, sono complicati, insomma, e poi nei momenti chiave, cioè dopo 39 secondi, no, 49 con Terra e 37, cioè meraviglioso, veramente. Sì, che poi lui non è che avesse un grande feeling con il derby, però parda, hai visto mai, sai come sono gli attaccanti, no? Quando si accende la scintilla, magari, Sì, ma io ci credo relativamente. Cioè io penso sinceramente che farà di più, in realtà già l'ha fatto con una sola partita, farà di più di quello che si è visto al Milan, cioè secondo me farà delle cose discrete all'Atletico Madrid. Se devo fare un pronostico ti dico che farà altri 7-8 gol da qui fino alla fine della stagione, quindi secondo me chiuderà, diciamo, facendo la proiezione con una stagione da 15-16 gol se l'avesse fatta tutta. Non credo che farà molto di più, sinceramente, però ieri non doveva neanche giocare, Se Mandzukic non c'ha la febbre, lui neanche gioca, è incredibile, quindi teoricamente è venuto a fare la riserva, e probabilmente sarà così, non, io la vedo come te, Pier, non lo vedo trionfante, perché ti dico, per il resto della partita e anche all'andata nel derby che ha giocato da titolare, io l'ho visto a un certo punto, partono due contropiede e il Nino era in ritardo di 30 metri, cioè come con la mano alzata dicendo: aspettatemi, arrivo. Quindi io non sono d'accordo con quello che dice Pier, difficilmente farà la differenza, però insomma, mi viene in mente, ti ricordi il Paolo Rossi versione milanista? Doppietta nel derby, curiosamente anche quella partita finì 2-2 e furono le uniche scintille del Paolo Rossi milanista. Vabbè, non sono tutte uguali, cioè oltre ad aver fatto due gol e uno solo invece di 6 mesi di Milan, c'è anche il fatto che il gol col Milan è stato ad Empoli, una partita pareggiata. Se anche finisse qui la stagione di Torres all'Atletico, ci avrebbe fatto il suo dovere, perché basta così, derby con eliminazione. Per cui questa è un po' la realtà, è che ancora una volta guarda, io ti dico, è stata gestita a livello emozionale, il ritorno di Torres è stato spettacolare, cioè lì Simeone ha visto veramente molto lungo, perché cosa succede? Qua c'è la tragedia del tifoso morto, no? Gli scontri con quelli del Deportivo, tra Atletico e Deportivo, muore il tifoso e grandi misure disciplinarie contro l'Atletico, viene a mancare il Calderon, che è un elemento fondamentale per loro. Lui gioca questa carta, fa tornare Torres, 45.000 persone alla presentazione, e la storia gira, perché questo è l'Atletico, vive di emozioni, diciamo, lo sa molto bene, e anche Torres si sente a casa. Lui la prima frase che dice, no, dice ma io, dice, poi un giorno mi spiegherete cosa ho fatto per meritare tutto questo ai tifosi, che è bellissimo, e lui lo sente e in qualche maniera cerca di ripagare e via. In fondo viviamo per questo, per le emozioni, ragazzi, viviamo per le emozioni, per l'emozione anche di sentire il traffico e poi di continuare a parlare insieme con Pardo e Filippo Maria Ricci, c'è Alessandro da Modena, Pasquale da Firenze, coinvolgeremo anche loro nella discussione. daremo un'occhiata alla Coppa d'Africa, perché Filippo Marerici, come sapete, è il massimo esperto vivente planetario di Coppa d'Africa, calcio africano e dintorni. Y sí, porque jugamos contra el mejor equipo del mundo, que salió campeón del mundo hace poco, que ganó la Champions y que tiene un grandísimo estadio donde estuvo lleno, donde obviamente que aprovecharon toda su presión de la gente para jugar de la manera que lo hicieron en el primer tiempo y lo hicieron bien. Y nosotros creo que más allá de defendernos bajo, también lo hicimos regularmente bien. Prima della Guinea Equatoriale, Alessandro da Modena, cosa voleva dire? Ma niente, volevo per curiosità, non so cosa darei per sapere il signore dei campionati taroccati, sì, questa sua teoria dove l'ha diciamo elaborata, dove se l'è fatta. Se forse l'è secondo fatta. Me, essendo di Napoli, se l'è fatta vedendo i due campionati vinti dal Napoli, uno con la Molettina. Ecco i colleghi che fanno dello stalking. Fanno stalking, ecco, denunciamoli, ecco, per lo stalking. C'è uno stalker qua che mi sta disturbando. Ah, vabbè, meglio da aprire però. Cosa no, parlo? Guardi, no, perché le teorie ecco, sì, ma siamo qua un po' in subbuglio perché queste telefonate dopo che creano queste cose. Comunque io pensavo che fosse nata la teoria dai due scudetti vinti, uno grazie ad Alemão e uno grazie anche eccala Alemão e la monetina e la dove monetina. Siete? C'è qualcuno? Parlare. No, perché se uno guarda anche le piccole cose esistono anche, non so, delle tantissime cose. Ma dove siete, Alessandro, dove siete? In ufficio? No, al bar, in una ristorante? Ditta, però purtroppo sono qua circondato dai adesso gli rispondo, se si può, in napoletano. Sì. Ti siete pigliati una bella guantiera a babà domenica. Ah, bella guantiera a babà, ti è piaciuta? Pardo, bella, eh? Sì, ma mi dovete aprire, dove che azienda siete? Facciamo pubblicità, dove siete? Si può, perché ecco, niente, non si può parlare. No, come si fa? Devo mettere giù, perché... Adesso gli faccio un elenco in diretta nazionale, faccio un elenco che qua si parla dal gol in fuorigioco di Caleon dell'anno scorso, rigore non dato a Marchisio in finale di Coppa Italia. Rigori dati a Zalaieta per simulazione, con Ranieri gol annullato a Toni regolare, Coppa UEFA dell'89, gol annullato Alessandro, basta! Non capisco più, basta! Capisco più niente. Alessandro, grazie, mi sono divertito. Un casino, non capisco più niente. Torna Filippo Maria Ricci in Spagna, sarà divertito anche lui, no? Coppa UEFA dell'89, oh. Coppa UEFA dell'89. ma la Coppa d'Africa 2015 in Guinea Equatoriale, taroccata, chiaramente taroccata. Allora, è chiaro, ieri è arrivata la Tunisia in albergo e non c'era nemmeno l'acqua. Come non c'era l'acqua? Non c'era l'acqua. No. Perché? Nell'albergo. E la cosa più bella è questa, la frase di Claude Leroy, allenatore del Congo, ha detto ai suoi, dice: "Dobbiamo qualificarci assolutamente per la seconda fase, perché così ci saranno meno squadre e avremo le nostre stanze, perché neanche hanno le stanze a sufficienza." Il discorso motivazionale ha preso questa piega. La situazione è la Coppa d'Africa resta il torneo più affascinante del globo, perché se uno pensa che comunque ci sono giocatori di un certo livello che magari sono impegnati o giocano, sono abituati a vivere in struttura 5 stelle in vario senso del termine, e qua si ritrovano veramente in un paese che ha deciso di organizzare la Coppa, cioè gliel'hanno, diciamo, si è offerto volontario a 15 o un mese, diciamo 30 giorni dall'inizio, non ha assolutamente le infrastrutture, ci sono due delle quattro città non hanno nemmeno l'aeroporto. Ah, per cui potete immaginare come sarà. Ma l'aeroporto che serve, dai, su. Esatto. Si va a dorso di culo, no? Per cui niente, tante storie, non mi venite a fare la morale che non ci saranno grandi innovazioni tattiche, che non si vedrà un bel calcio, non ci interessa per niente, a noi ci interessa solo la Coppa d'Africa, ha queste, diciamo, una valenza assolutamente surreale, assolutamente sua, propria, E anche quest'anno non lo sarà ancora di più, perché il conto era andare in Marocco, dove in fondo può andare chiunque, in Guinea Equatoriale. Non è facile andarci. Algeria, Costa d'Avorio, Tunisia, tre favorite, una di queste tre pescaggioli. Poi tanto avranno già deciso, Olcana, visto che è tutto taroccato, avranno già deciso chi vince, no? No. Dai, no. Vediamo come. Poi hanno messo la cosa bellissima per cercare di favorire i padroni di casa: sono tutte le squadre buone da una parte e tutte quelle meno buone dall'altra, quindi un girone, diciamo così, un calendario fatto veramente con le palline calde e fredde. E però niente, domani si comincia e vedremo come va a finire. La Guinea Equatoriale è spettacolare, hanno preso dei ragazzi spagnoli, sì. Ma gente veramente dei ragazzini, cioè il portiere è un andaluso, è un bianco di Malaga, che però aveva il nonno della Guinea Equatoriale, che ha 18 anni e gioca nel Juvenil A, cioè praticamente proprio a livello, con i bambini, così. Però queste sono, così è la Coppa d'Africa. E poi scusa, per chiudere, c'è l'allenatore, per me è caso unico al mondo, l'allenatore della Guinea Equatoriale ha già vinto la Coppa d'Africa con le donne. Ma si può fare un inedito doblete. Esiste. È un po' ambigua questa cosa, ha vinto la Coppa d'Africa con le donne, sembra tipo invece punto di vista calcistico, precisiamo, esatto. Attenzione che tra le protagoniste c'era quella povera ragazza che è finita anche sulla Gazzetta l'altro ieri, vista. Genoveffa Agnoma, sì. che è stata costretta a spogliarsi per provare di essere una donna. L'allenava l'attuale allenatore dei ragazzi della Guinea Equatoriale. Grazie Phil, ce la racconterai tutta, ciao. Tutti in Guinea. Io e Pardo siamo già in partenza, perché quando partiamo non mi ricordo più. Io adesso vado a prenotare il volo. Due biglietti e andiamo in Guinea Equatoriale. Viene anche Dante da Milano, fai tre. Dante, vai. Dante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Pronto per la Guinea Equatoriale? Viene, no? Viene con noi. Di corsa anche. Di corsa, in aereo. Se troviamo un posto con l'aeroporto, andiamo in aereo. Altrimenti, magari. Va bene, di corsa. Volentieri. Porto il costume da bagno. Vorrei utilizzare la mia convocazione per fare una considerazione insieme a voi. Siete pronti? Vai. Possiamo affermare con assoluta certezza che l'esperimento della presenza dell'arbitro di porta è totalmente fallito? Mi riferisco ovviamente agli accadimenti di quanto è successo con la Roma. Che senso ha avere un arbitro di porta che di fronte a un accadimento del genere dice non ho visto, no, per me la palla non ha sulla tua linea, e l'arbitro dice no, mi chiedo io, tu non conti. Allora, le dico la mia: secondo me è fallito, ma non per questi motivi, cioè non per le questioni del gol non gol, perché quelle sono impossibili da risolvere con esattezza per l'occhio umano, anche fossero 10 arbitri di porta, perché sono in alcune circostanze come quelle di Udine totalmente irrisolvibili dall'occhio umano. Quindi è fallito, ma per altre ragioni. Pier? Sì, sono d'accordo. Perfetto. Pasquale Firenze. Fantastico. Ritmo. Pasquale Firenze. Sì, ciao. Ciao, buonasera. Volevo parlare del calcio, appunto. Una domanda a Pier del Leopardo. Calcio? Del calcio? Corrotto. Dai. Allora, Pier Leopardo, una domanda diretta. Sì. Come mai gli errori arbitrali che ci possono essere sono solo ed esclusivamente a favore della Juventus? Dai, è una domanda irricevibile questa, ma non è vero, dai, ma non è vero. Dai, io non lo so, Come faccio a rispondere a una domanda del genere? Cioè, non. Te la pongo in un altro modo. No, come, ma anche in un altro modo. Si sbagliano solo a favore della Juve? Perché a favore della Roma di recente no, Pasquale. Non è vero, l'anno scorso si è parlato, adesso abbiamo ricordato anche l'altro giorno in Napoli-Juve c'è stato un gol che è avvenuto, lo sappiamo bene, sotto forma di col fuorigioco di Caillecon. Può succedere, ma sì, no, ma non possiamo rifare 5 giorni dopo la moviola. Io ti sto dicendo, l'abbiamo fatto mezz'ora l'altra sera a Tiki Taka con posizioni molto diverse. Sì. Mi sembra evidente, lo ripeto come un disco rotto, che ci sono spesso episodi arbitrali dei quali discutiamo, non mi sembra di vedere in questa stagione non mi sembra di vedere un filo univoco di un vento che va da una parte e le duellanti per lo scudetto sono due. Io non ho visto in tutta la stagione una di queste due che viene aiutata e l'altra che viene avversata dagli arbitri. Ho visto varie situazioni, ho visto uno scontro diretto nel quale certamente la Roma si è arrabbiata, ho visto altre partite però nelle quali la Roma non si è arrabbiata, anzi sono arrabbiati gli altri che dicono lo vedete. Poi settimana scorsa si è arrabbiato il Napoli e di conseguenza la Roma in Napoli-Juve, e questo è quello che vedo, quindi non vedo un disegno. Sai io cosa vedo? Non sono d'accordo col solo episodio a favore, perché se ci fosse questo discorso Udinese-Roma davano il rigore all'Udinese. Domanda irricevibile era la risposta corretta. Sai cosa vedo io invece in questo momento sui siti? Vedo Leonardo, che è uno degli affari di Safare, che chiede danni con gli interessi alla Federcalcio francese perché era stato squalificato per una spallata quando era direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Spallata all'arbitro, squalificato per 19 mesi, per un sacco di tempo. Adesso l'hanno scagionato e lui ha chiesto 8 milioni e mezzo per riparare gli effetti collaterali di una condanna. Ma è così che si fa, Leonardo. Grande Leo, degli amici. Uno di noi, ricordati degli amici. Ciao Pier. Ciao. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Commento su Lavezzi, cosa pensa di questi ultimi sviluppi al PSG, se può essere un'opzione anche lui in alternativa. Qui c'è da aspettare. Amsic di testa per Cavani, che è posizione regolare. Cavani non la controlla, poi sì! Per quanto riguarda Pogba, cerchiamo di vivere il presente, che è la miglior cosa, cerchiamo di pensare a questi 5 mesi e poi a giugno non si sa cosa succede. Che Pogba lo vogliano tutte, credo che sia una cosa normale, perché è giovane, è forte e credo che abbia delle qualità importanti per migliorare, perché io credo ancora che Paul stia facendo meno di quelle che sono le sue reali potenzialità. Non ce li possiamo permettere i ritorni di Lavezzi, di Cavani, non ci possiamo permettere di trattenere Pogba. Marco Belinazzo da Sole 24 Ore, ciao. Non ci possiamo permettere troppe cose, evidentemente. Non ci possiamo permettere quasi niente. Magari il ritorno di Eto'o, che sta tornando. Il ritorno di Eto'o potrebbe essere un'operazione molto intelligente fatta dalla Sampdoria di Ferrero, sì. Guardato con tanto scetticismo o con tanta simpatia, sì. Il quale però si trova in una situazione abbastanza privilegiata, nel senso che ha comprato una squadra di fatto leggera, libera dai debiti del passato, grazie alla generosità della famiglia Garrone, e quindi in qualche modo si dice che gliel'hanno regalata. Beh, insomma, si è assunto l'onere di gestire una società di calcio che era in rosso e che con certe operazioni può anche essere portata in attivo. Ha ottenuto un po' di soldi da Gabbiadini, ha un tesoretto che è quello dei diritti TV, che può, come dire, anticipare in banca e avere della liquidità necessaria, e quindi può scommettere su una Samp che magari non arriverà al terzo posto, ma che si piazzi in Europa per quanto riguarda la prossima stagione. Secco, la Juventus può permettersi di trattenere Pogba? Arrivasse un'offerta, si legge 70, 80, 90, 100, 110, 2000, 8000 milioni. Tecnicamente potrebbe permettersi di trattenerlo, da un punto di vista ovviamente di opportunità economiche non le converrebbe tenere Pogba di fronte a offerte così clamorose, a meno che appunto la Juve non faccia una scelta di tentare con un innesto importante, un paio di innesti importanti al prossimo mercato, di andare più avanti possibile nella prossima Champions, di farlo almeno per un anno e poi magari di vendere Pogba, cioè praticamente di giocare a rischia tutto come fa l'Inter. Tra poco ne parliamo perché l'argomento mi interessa tantissimo. Gianluigi Monza, buongiorno. Sì, buongiorno gente, buongiorno anche a Pardo, che non so se è rimasto. No, Pardo ha da fare. No, mi sono dimenticato anche di fargli fare. Mi sono dimenticato anche di fargli fare la schedina, lo so, ma la faccio fare a Belinazzo dopo. Dica. No, niente, io volevo solo dirle una cosa in merito alle cose che sono state dette in passato questa settimana, soprattutto, ma riguardano l'arco di tutto il campionato, perché ogni tanto qualche presidente come De Laurentiis ultimamente se ne escono con queste frasi che lei reputa insignificanti o non rilevanti, visto che lei dice: io non mi faccio convincere comunque dalle parole di un presidente per avere delle reazioni. Ho capito, ma lei ragiona così, io ragiono così, ma in giro, e le assicuro che se lei frequenta uno stadio come faccio io, di persone poco coerenti e corrette, ce ne sono tante, cioè quelle parole lì sono parole che non vanno dette, e bisogna in tutti i modi creare una situazione che gli impedisca di dire certe cose, perché non si può, perché poi sente le varie telefonate che le arrivano, sono anche dettate da quelle dichiarazioni che non si devono fare. Perché guardi, una cosa velocissima poi chiudo: Juventus-Sampdoria in casa 1-1, per la Juventus gli hanno dato un rigore ed hanno fermato Tevez in fuorigioco di un metro che non c'era, ma non mi sembra che abbiamo detto che la Sampdoria ha pagato l'arbitro e la Juve ha pareggiato per... Ha capito quello che voglio dire? Ho capito. Allora, Gianluigi, sono importanti le parole, ma sono più importanti ancora i fatti. Io non accetto che... non voglio accettare, ma proprio per principio, che in un mondo civile un presidente che dica gli arbitri hanno sbagliato per a favore della Juventus, quello che ha detto, insomma... De Laurentiis, non posso accettare la reazione violenta da parte di qualcuno. Sappiamo come la Juventus ha scelto una strategia di comunicazione che è diversa da quella della Roma. Questa volta De Laurentiis ha sbroccato, però io preferisco una dialettica contenuta entro i limiti corretti, però preferisco la dialettica. Marco Benirazzo. La dialettica, ti dirò di più, ci deve essere, perché è un po' il pepe, no? Che serve a tenere alta l'attenzione e l'opinione pubblica, e ci sta che si dicano determinate cose, magari, ecco, dovrebbero essere contenute nell'arco delle 3-4 ore dopo la partita. Le cose a mente fredda sono più dissacranti e soprattutto controproducenti. Però qui andiamo a monte, il problema qual è? Quello che manca nella Lega di Serie A la concezione unitaria, collettiva, di star guidando un'unica macchina, un'unica azienda che deve produrre risultati che poi vanno a tutti, di cui beneficiano tutti, per cui, diciamo, creare poi troppa confusione e gettare troppi dubbi sulla correttezza del campionato finisce per rovinare l'appeal. Sì. In Serie A finisce per ingrippare il motore di quella macchina, e quindi alla fine non ci guadagna nessuno. Se la maggioranza si mette in testa la bizzarra idea, come si diceva ieri, che tutto è taroccato, è chiaro che io consiglio di spegnere la TV, di spegnere tutto. Se siete convinti che tutto è taroccato, spegnete. Ma ti dirò di più: anche Calciopoli, al di là di tutto, sulla PIL della Serie A all'estero ha pesato molto. Chi ha venduto i diritti della Serie A all'estero ha fatto molta più fatica in quegli anni. Come normale, Marco. Però c'è scarsa percezione di quello che è l'impatto, diciamo, negativo sul prodotto. Noi parliamo di calcio, naturalmente, che è la cosa più bella, siamo qui pieni di passione per questo magnifico sport, ma parliamo anche di un'azienda. E quindi i presidenti fanno bene, secondo me, a dire quello che pensano. Sarebbe assurdo che si limitassero in questo. Devono farlo, però, sapendo che il giocattolo non va rotto. Certamente, il giocattolo intero, complessivo. Allora, voglio parlare della partita di poker dell'Inter. Però in questo momento la nostra priorità è di alleggerire, anche perché, come tutti sapete, siamo una delle squadre che è sotto la lente di ingrandimento dell'UEFA, e quindi vogliamo dare anche a loro il segnale, la testimonianza che vogliamo essere estremamente rispettosi delle regole. Questa è la Fassone che ha parlato in settimana. Allora, la sensazione che c'è adesso è molto interessante, tutto questo. C'è anche un pezzo oggi su Repubblica dell'amico Andrea Sorrentino: azzardo dell'Inter, missione terzo posto, Mancini andrà via, il tecnico ha convinto Torreira a spendere, senza Champions a rischio Icardi, Kovacic e tutti quanti. Cioè, la sensazione è che l'Inter stia giocando a poker. Io la settimana scorsa, insomma, ho intitolato il mio post L'Olin dell'Inter. L'Olin dell'Inter. Beccandomi, diciamo, le critiche dei tifosi interisti come se io ce l'avessi, insomma, col club nerazzurro. In realtà ho fatto un ragionamento molto semplice basato su quello che è l'attuale condizione economica dell'Inter. Tu immagina di avere una squadra che parte da meno 100, che è lo scorso bilancio, che c'ha sul groppone per i prossimi due anni 30 milioni per i due staff tecnici, a meno che Mazzarri, ripeto, non trovi un'altra soluzione. E che deve fare? È una squadra che aveva davanti due scelte: quella di pensare soltanto, diciamo, ad abbattere ulteriormente i costi, cercare di rifinanziare il livello di indebitamento con un'altra formula per pagare meno interessi, cosa che, a cui si sta pensando in società, ma questo avrebbe portato, continuando con Mazzarri, a rischiare di arrivare magari in Europa League e di mancare l'appuntamento con la Champions. Si è voluto rischiare, si è preso Mancini, si continua a pagare lo stipendio di Mazzarri. Mancini ovviamente è arrivato dicendo: signori, beh, mi servono alcune pedine. Mancini ha la capacità, avendo un grande blasone internazionale, di alzare il telefono e convincere alcuni giocatori, certo, a venire all'Inter. Lo si è fatto come? Con delle formule che che pesano pochissimo sull'attuale bilancio, no? Di fatto prestiti, l'obbligo di riscatto, sì, se ne parla a giugno, e nel frattempo si fa il tutto per tutto per arrivare alla Champions. Perché se l'anno scorso, fino a questa stagione, semplicemente partecipare a gironi valeva 30 milioni, con il prossimo contratto, quello che ha garantito Mediaset per strappare la Champions, sì, a Sky, pagando 100 milioni in più, si determinerà una situazione per cui semplicemente partecipare al girone potrebbe valere quasi 50 milioni. Allora, questa cosa è importante non solo per chi 50 milioni li prende, ma anche perché prendendoli impedisce alle altre squadre di prenderli. Quindi, certo, tolta Roma, certo, Juventus, io li prendo, mi rinforzo, penalizzo gli altri. Partita a poker totale. E quindi capisci perché alle spalle di Roma e Juve c'è tanta attività, tanto fermento nelle varie squadre che cercano di rinforzarsi, perché arrivare al terzo posto era importante, ora è essenziale. Certo, e non c'è una squadra che dà l'impressione, nemmeno il tuo Napoli, non c'è una squadra che dà l'impressione di essere in grado di prendere in mano quel terzo posto e di tenerlo fino alla fine. Claudio Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, volevo chiedere due cose. La prima è parlare di destro. Sì. Questo ragazzo che è stato comprato dal Siena per 15 milioni aveva fatto 8-9 gol. Adesso destro è diventato un fenomeno. Cioè, guai, destro, sembra che l'Italia prescinda da uno come destro. Mi sembra un po' esagerato, ma queste sono sempre le solite palle giornalistiche. L'altra cosa invece mi rialzo. Qualcosina ha fatto l'anno scorso, al rientro dal lungo infortunio, qualcosina ha fatto. Gente, non ha mai giocato, è infortunato l'anno scorso, come dice? Beh, no, insomma, mi sembra che infortunato nella prima... Nella Roma, visto che fa tutto Gervinho, basta spingere sotto porta, e lo vediamo nella maggior parte dei gol di destro. Quindi, sì, avessimo un giocatorino valutato 20 milioni, ma se lo possono tenere. L'altra cosa è questa: bisogna smetterla con i giornalisti, con gli ultra giornalisti, perché sennò le polemiche, questa è una domanda, invece un'osservazione piuttosto tecnica, cioè è inutile che se mandiamo in televisione gli ultra a fare giornalisti, avremo sempre polemiche, sempre casini, sempre bla bla bla bla bla. Basta. Il calcio è bello perché il pallone gira, la palla gira, sì, e il calcio è bello per quello, segniamolo, sì, così. Quindi, bene, via gli ultra dalla televisione. Via gli ultra dalla televisione, oppure si fa valere il diritto di telecomando di scelta delle letture, ed è come se non ci fossero. Questa può essere un'altra idea. No, attenzione, ma uno il calcio vuol vederlo in TV, uno strapaga Sky per vedere il calcio in TV, e poi ci vede tutti i cronisti romanisti, ci vede tutti i cronisti napoletani, e uno che vuol vedere una santa partita e senza polemiche non è possibile. Ma insomma, a me sembra abbastanza. Allora, ma che conta? Però, Claudio, la polemica fa audience. Però quello che si vede sul campo, quello che uno vede alla televisione o vede allo stadio, non è quello che il giornalista dice, è quello che lui vede. E poi, se il giornalista la commenta in un modo diverso, non è quella la verità assoluta. Ognuno ha la sua idea e secondo me se la tiene. Destro 13 in 20 partite l'anno scorso, non mi sembra poca roba al rientro dall'infortunio. No? Assolutamente no, mi sembra che sia un buonissimo giocatore, non un fenomeno, deve dimostrarlo se chiaramente giochi con il contagocce al di là degli infortuni, fai molta fatica a dimostrarlo. Diventa difficile, anche quest'anno per il poco che ha giocato a spizzichi e bocconi, come dicono a Milano, qualche gol ha infilato, a me comunque è un giocatore che piace molto. Altra cosa, altro tema della settimana che vorrei che mi chiarissi, è stato un derby lunghissimo, no? Lotito e poi Pallotta e poi Valdissone e poi di nuovo Lotito, questo scontro sui conti giallorossi innescato da Lotito e che ha preso una deriva molto cacciaresca. Non voglio fare polemiche, però vorrei dire al dottor Baldissoni, avvocato Baldissoni, che innanzitutto non perdesse tempo appresso a queste cose e si dedicasse più a tenere in ordine i conti della propria società. Poi, se vuole, può venire a Formello, così nella sede, così gli facciamo vedere le scommesse vinte ai fini del risanamento della società e ai fini dell'efficienza della società. Allora, bellissimo, eh? Qualche anno fa mai si sarebbe giocato un derby dei bilanci, insomma, per me ovviamente è tutto grasso che cola, no? a parte questa sciocchezza. Indubbiamente si confrontano due modelli, no? Il modello Lotito ha preso la Lazio dal quasi fallimento, sì, dell'era Gragnotti, tutti ricordiamo la super dilazione di 23 anni del debito fiscale da 140, sì, milioni. Dopodiché ha creato un piccolo gioiello gestito molto bene con degli utili annuali non particolarmente importanti. Il fatturato non è cresciuto tantissimo, ma credo che sia diciamo connaturato poi a quella che è la dimensione della Lazio. Ha investito molto su vivaio ed ha diversi giocatori di prospettiva dai quali potrà incassare tantissimo e a suo, come dire, discapito c'è il fatto che per esempio ci sono alcune società del suo gruppo che svolgono dei servizi per la Lazio, la sicurezza, le polizie, sì, che incassano dai 4-5 milioni all'anno, del tutto legittimo questo, questo non piace a una parte della tifoseria. In ogni caso Lotito ha creato una società che in questo momento è sicuramente tra le più solide in Italia. Ma ha ragione o ha torto nel fare pulce alla Roma? Assolutamente sì, nel senso che la Roma è in rosso, l'ultimo bilancio è stato chiuso con circa meno 40 milioni, nonostante diciamo le grandi plusvalenze fatte da Sabatini. Detto questo, la Roma è una di quelle società che, pur essendo sotto indagine da parte della UEFA insieme all'Inter, riceverà una sanzione, ma la posizione della Roma è meno grave di quella dell'Inter, è una di quelle società che, dicevo, ha impostato un piano, come dire, di risanamento, ha un progetto stadio importante, tra qualche settimana dovrebbe essere poi annunciato anche il piano di finanziamento che servirà a questo progetto, circa 300 milioni, e dunque è una società che si sta risanando, è meno sana in questo momento della Lazio e quindi in questo senso, sì, Lotito ha ragione, ha più prospettive della Lazio e in questo senso, insomma, quindi ragione Pallotta ragionevolmente può andare a spiegare a Lotito con parole che capirebbe anche un bambino, questo ha detto Pallotta, che la Roma non, allora, non mettiamola sta così, messa male, eccetera eccetera, per pareggiare i conti così nessuno si arrabbia. Pallotta può andare da Lotito a Formello e Lotito gli può spiegare come tenere più o meno in equilibrio i conti. Lotito può andare a Trigoria da Pallotta e Pallotta gli può spiegare come rilanciare la società e come fare piani di investimento per costruire lo stadio, che è uno dei talloni d'Achille della gestione della Lazio e anche, diciamo, della politica che Lotito voleva fare. Insomma, si possono confrontare, il confronto può essere aperto e proficuo, sempre farebbero, in quest'ottica, diciamo, di avere l'idea comune e collettiva, certo, di far crescere. Fossero dei normali imprenditori e invece sono dei presidenti di calcio, però va bene, e va bene anche questo, ci sta anche questo, che litighino anche sui bilanci, meglio questo che altro, insomma. Mirko Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Io purtroppo sono stato anticipato dall'ultimo ascoltatore, volevo però approfondire il tema che ha detto lui. Poi ti faccio una domanda a te, Carlo. Dimmi. Io credo che siamo arrivati proprio oltre il limite per quanto riguarda il discorso arbitri e la colpa, secondo me, maggiore ce l'ha proprio la carta stampata. Perché? Perché sì. Subito finita la partita, quello che si va a analizzare sono gli episodi Ramo Viola, chiaro, fanno audience, è uno dei temi su cui si può parlare maggiormente, ma il tifoso, proprio per definizione, è un bambino. Cioè, se chi gli insegna, tra parentesi, in questo caso i giornalisti che gli spiegano la partita, gli danno modo di potersi attaccare, gli danno l'alibi della sconfitta, cioè, buonanotte, e non si parla di altro. E anche rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, che uno, che tu gli hai detto che uno può spegnere la TV e non guardare, ma non è vero, perché se lui spegne la TV ci sono altre persone che magari guardano e iniziano a protestare, poi sul lavoro, cioè, siamo in un momento, secondo me, il primo freno lo deve tirare la carta stampata. Un esempio stupido, dopo metto giù, cioè, è possibile che per la stessa prestazione di un arbitro, prendiamo quello della che era Tagliavento di Napoli-Juve, sui tre giornali nazionali prende tre voti diametralmente opposti, si parte con Tutto Sport che gli dà 6, poi si va sulla Gazzetta, per ovvi motivi, si va sulla Gazzetta che gli dà 5,5, insomma poteva esserci l'errore, si arriva a Stadio che gli dà 4, ma che partita è troppo, si sbaglia. E la mia domanda che ti faccio, Carlo, è: non credi che ho ragione? Beh, Mirko, in parte sì, ma solo in parte, perché io continuo a pensare che non si debba dare tutto questo potere. Innanzitutto non condivido il fatto che siamo arrivati al limite, ma oltre al limite, queste parole le sento dire da quando ero bambino, quindi in realtà un limite non esiste da questo punto di vista. Io non credo che si debba prendere per oro colato quello che vediamo in televisione, quello che leggiamo sui giornali. Io credo che servirebbe un po' di autoanalisi, no? Guardiamo la partita, ci facciamo un'idea. Poi la discussione sulla partita, sull'episodio, sulla singola cosa, non è mica peccato se rimane entro certi termini di ironia, di civiltà, di goliardia, entro i giusti limiti della dialettica, non è mica peccato. Cioè, nessuno vuole la chiesa, il santuario immacolato dove tutto è perfetto, preciso e regolato dalle telecamere. A me non piacerebbe. Assolutamente, io credo che non dovremmo mai arrivare in questo senso a un modello, per esempio, americano, in cui gli spettatori, prima, mentre è già iniziata la partita, stanno ancora comprando gli hot dog. Faccio questo esempio per dire che, insomma, il calcio non è soltanto uno spettacolo, è passione, è vita per tanti, e è giusto che ci sia più attenzione da parte dei giornalisti, però non possiamo partire dal presupposto che il tifoso sia sempre un bambino. Il tifoso deve iniziare un attimo a crescere. Credo che in questi anni abbia avuto modo, sotto tanti punti di vista, di maturare, anche se sono frange che non matureranno mai. Sì, come quelle che possono arrivare a dire: ah, ma io ho menato quello perché De Laurentiis ha detto quell'altro. Questa è una cosa che secondo me è una cosa che io non posso accettare. Ma parliamo di stupidi o di delinquenti, non possono essere il nostro punto di riferimento. In questo senso mi sento, insomma, di dissentire un po' dall'ascoltatore. Berlusconi a Milanello con Sacchi per pranzo. Quindi è tornato Silvio Berlusconi a Milanello a pranzo e si è portato l'Arrigo. Prima di salutarti, Marco, invece volevo chiarire un altro punto. Andando in Spagna, Barcellona che denuncia Real Madrid: avete fatto anche voi, adesso anche voi non dovete più fare mercato, avete falsificato, cioè avete agito male sui tesseramenti di giovani giocatori, eccetera eccetera, e quindi adesso non facciamo mercato voi, però non lo fate neanche voi. Beh, il Barcellona la condanna l'ha presa, e quindi al mercato bloccato. Quella sul Real Madrid è un'indiscrezione di un giornale catalano, quindi come da prendere così ogni mondo e paese, come si vede, le polemiche si fanno. Quindi vedremo se effettivamente ci sarà un'inchiesta della FIFA. I fatti sono gli stessi, cioè le irregolarità sul tesseramento dei minori. Resta il fatto che in entrambi i casi c'è una politica molto attenta sui giovani, sugli investimenti sui giovani, e non solo sui grandi campioni. E in questo senso potremmo imparare qualcosa, dovremmo imparare qualcosa, non a fare tesseramenti irregolari ovviamente, ma a puntare di più sui giovani e sulle nostre cantere. Esiste, per chiudere, qualcuno in grado di comprare Messi? Beh, su questo pianeta. Io ne ho parlato, insomma, qualche giorno fa, ho fatto un piccolo ragionamento. Ci sono sostanzialmente, ecco, tre squadre che in questo momento potrebbero prenderle. Diciamo, la squadra che potrebbe prenderlo è quella, credo, che in cui Messi non andrà mai, cioè il Real Madrid, che è la squadra con maggior fatturato, ma non penso che possa fare questo salto. Metterei, diciamo, in ordine il Chelsea, il Manchester United, al secondo e terzo posto, diciamo, in ipotetica classifica di potenziali acquirenti di Messi, al primo posto metterei, per possibilità economiche e per appeal dell'allenatore, il Bayern Monaco. Sì. Ci sono due squadre che teoricamente... operazione da 200 milioni. Esattamente, ci sono due squadre poi che potrebbero prenderlo, ma sono bloccate per il fair play finanziario, quindi City e Paris Saint-Germain. Sì. In ogni caso l'operazione Messi, anche lì mi sono divertito a fare qualche calcolo, potrebbe diciamo non essere così dispendiosa, nel senso che prendere Messi ti potrebbe permettere, diciamo, in un arco temporale di 3-4 anni di incassare qualcosa come 150 milioni dal merchandising. Il Barcellona vende 1.200.000 magliette all'anno, mettiamo che 300.000 siano di Messi, a 50 euro, che comunque è un prezzo basso, sappiamo che vengono venduti di più, fanno più o meno 15 milioni all'anno, su 3-4 anni ci danno già un bel introito. Ci sarebbero i diritti d'immagine, in Spagna si sono inventati la cosiddetta clausola Figo, che non è per quelli belli, insomma, è la clausola fatta per Figo, per Galacticos, con il 50% dei diritti d'immagine divisi tra club e giocatore. Messi, come sappiamo, oltre ai 20 milioni di ingaggio prende anche 20-30 milioni di diritti d'immagine, anche lì ci sarebbe un bel guadagno per la società. E infine, per esempio, consideriamo le amichevoli, le nostre squadre hanno scoperto un po' le tournée, ma incassano bricioline, 2-3 milioni, Real e Barcellona portano a casa 10-15 milioni all'anno delle amichevoli. Solo queste tre voci dirette ci darebbero sui 5 anni qualcosa come 100-150 milioni, capisci che ti ripaghi gran parte dell'investimento. Fatto questi calcoli per capire se potevo comprarlo io Messi e magari rivenderlo, e ho deciso che forse parlo con le banche. Inizio colloqui con alcune banche per portarlo in un club del quale non ti posso rivelare il nome, ovviamente. Ma solo il cognome, Napoli. Grazie Marco Perinazzi. Ciao Carlo, alla presto. Prossima 800 24 00 24, torniamo dopo la borsa. Twittano le mogli e le fidanzate, parlano i fratelli, giusto così, funziona così. Ha parlato il fratello del Pipita, di Gonzalo Higuaín, per dire che cosa? Io sono fiducioso e penso che la squadra può arrivare al terzo posto per arrivare alla Champions. No, dopo il futuro di Gonzalo si vedrà, no? Perché, ma adesso non posso parlare di nessuna cosa, perché prima che Gonzalo ha contratto con Napoli, in secondo termine, che non ho parlato con nessuna squadra, non mi ha chiamato nessuna squadra, l'interesse per Gonzalo è nullo, no? No. Perché poi oggi leggo su tutti i giornali terzo posto o Gonzalo se ne va. Non mi pare che sia questo il senso, dopo il patto dell'asado dell'altro giorno cucinato dall'uruguaiano Britos e da Maggio, che è veneto e non so cosa c'entri con l'asado. Si vede che ha fatto il sottococo. Roberto da Caserta, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti i convocati e convocatori, ovviamente. Certo, niente, buongiorno. Adesso sì, le faccio fare anche un po' di schedina, Le faccio fare anche un po' di schedina, ecco. Adesso, dica. Un po' di schedina, va bene. No, una cosa velocissima, sempre, visto che l'argomento arbitri è sempre il più gradito. Da tutti i tifosi, dagli ascoltatori, eccetera, sì, eccetera. Soprattutto, no? Dal sottoscritto, ecco. Guardi. Faccio le capriole ogni volta che sento questa parola. Infatti mi piace molto come è tratta l'argomento. Niente, una cosa velocissima, ma è anche di curiosità, no? Ma negli altri paesi, visto che io purtroppo non seguo le altre trasmissioni, c'è questo discorso di valutare cosa fanno gli arbitri, criticarli, trasmissioni che ne parlano, che criticano, queste dispute? In Francia, in Germania, in Inghilterra. Allora, le dispute ci sono. Gli arbitri. Aspetti, allora, le dispute ci sono, le incazzature anche, il problema è la durata. Il problema è la durata il problema è la durata e l'intensità. Da noi durano praticamente se non smettono mai, non finiscono. Da noi non c'è soluzione di continuità. All'estero ci sono tutte queste cose, però si va via lisci, dopo un po', vabbè, capito, ma quelle, questa, perché anche domenica in Barcellona, Atletico Madrid, ci sono state diverse polemiche, storie di gol non gol, no? E solo sì. Sono finite lì. Ah, vabbè. Così, sì, è il mondo, effetti, così va il mondo. Anche perché in effetti tanto ormai la partita si è chiusa, quindi ovviamente non è che sono polemizzando può cambiare il risultato. Sì, ma no, ma poi soprattutto la grande differenza è che all'estero non sanno neanche i nomi degli arbitri. Noi invece conosciamo tutto l'albero genealogico di ogni, di ogni arbitro. Senta. Sì, perché infatti se va al bar già prima della partita cominciano a dire hanno nominato Rizzoli che l'altra volta tranquillo. Io sono milanista, Empoli-Inter 2. Sì, tranquillo. Palermo-Roma. Mi sembra che Mancini abbia dato una svolta, almeno anche come gioco. No? Anche quindi... Palermo-Roma. Palermo-Roma 2 tutta la vita. Cesena-Torino. Cesena-Torino 1. Chievo-Fiorentina. Pari. Grazie Roberto. Prego. Da Caserta, grazie. Fabio da Parma, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io volevo sapere solamente se avevate notizie sulla la questione societaria del Parma. Perché sembra che non si senta più niente in giro. No, si sente. Il Parma è stato ceduto da Ghirardi a Taci, che ha già cominciato ad operare sul mercato, ha preso Nocerino, sta per prendere Girardino, dicono oggi, probabilmente arriverà. E tra l'altro Ghirardi ieri ospite di Alessandro Bonanna, speciale calciomercato, a Calciomercato, ha parlato, ha detto qualcosa di questo tipo. Sì, ma io infatti non ho problemi a dirlo che è stata una mia scelta quella di non finanziare più il Parma, ma lo dico con grande serenità. Lo dico con grande serenità perché io mi sono trovato a raggiungere un obiettivo sognato per Notti, che era il raggiungimento della Coppa UEFA, e poi mi è stata portata via senza nessuna motivazione. Perciò io mi sono sentito tradito da questo mondo, da queste istituzioni che governano il calcio. Ho fatto le cause, sono andato in tribunale, ho fatto tutti i ricorsi possibili e immaginari, sono arrivato ai diritti dell'uomo a Bruxelles, perché fino ad ora oggi nessuno mi ha dato una motivazione per cui il Parma non è in Coppa UEFA quest'anno. E dunque è andato alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, chissà se ne uscirà Ghirardi. Ciao Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, ciao. Buongiorno a tutti. Abbiamo raccontato prima la notte magica di Fernando Torres a Madrid, invece io vorrei parlare della mattina magica di Elena Fanchini a Cortina, tornata a vincere in discesa libera 10 anni dopo. Bella storia, eh? Sì, diciamo che è una storia che si riprende, anche se la ragazza ormai ha 30 anni non è certo agli albori della carriera. Purtroppo quel 2005 è stato un anno da una parte, purtroppo e per fortuna, da una parte magico, ma dall'altra anche purtroppo foriero di disillusione. Lei arrivò seconda al Mondiale di Bormio e nella stagione successiva la prima gara vinse praticamente da debuttante in Coppa del Mondo, aveva fatto una gara anche nella stagione precedente ma era una sorta di assaggio, diciamo che quella era la sua prima vera stagione da titolare in Coppa e cominciò con una vittoria. La gara successiva andò male, ci fu una caduta e da lì Elena purtroppo si è persa, perché lei l'ha confessato, dopo quella brutta caduta ha cominciato ad avere paura, e per chi fa la discesa la paura purtroppo non è una buona compagna. Adesso c'è stato questo colpo d'ala, sicuramente in situazioni un po' particolari, la pista più corta che ha senz'altro ridotto le possibilità dei grandi calvi come la Von, come la Mazza, però credo che Elena abbia anche interpretato molto bene la gara, abbia sciato bene veramente per tutta la corsa, ed è una vittoria vera, ecco. Sì, e comunque sai cos'è che mi colpisce? Il fatto che una sciatrice che arriva a 30 anni, che ha avuto una montagna di infortuni, sia riuscita ancora ad arrivare lì e 10 anni dopo a vincere una corsa. Molti altri atleti l'avrebbero data su prima, no Flavio? È verissimo, infatti è quello che lei ha detto, cioè io la mia medaglia è la continuità, crederci ancora e l'aver resistito. Se sentite l'elicottero è che qua venga, stanno portando i vincitori della combinata e c'è un po' di sta atterrando proprio in questo momento. Com'è andata? Per gli italiani molto male, nel senso che Paris ha proprio sbagliato ancora una volta la famosa S di Kernen, che lui proprio non riesce a digerire, ed è ha compromesso con la discesa anche alla successiva prova di slalom. Inerhofer dice di non aver lasciato male ma sentiva di andare avanti, totale ha vinto Carlo Janka, che da un po' che non conosceva la vittoria, e i nostri sono veramente in posizioni inguardabili, ventesimo sì. Inner, 22 Marsaglia e 26 se ben ricordo Paris, però domani abbiamo lo slalom e poi comunque sai, lo slalom, Flavio, di domenica sì appunto, cioè adesso c'è cioè, oggi questa vittoria di Elena Fanchini, ma tre giorni fa, cioè, quattro giorni fa la vittoria di Gross, un bel paio di raggi di sole Sì, diciamo che soprattutto sono arrivati al momento giusto, perché ci stava un po' montando la depressione, visto che il mondiale è ormai vicino, e diciamo che queste due vittorie, se non altro, come dire, rendono un po' più abbordabile la trasferta americana, dove peraltro sarà sempre, come ogni mondiale, molto molto difficile. Vediamo domani lo slalom se i nostri sapranno ripetere, comunque dare un minimo di continuità a livello di risultato, e poi vediamo la discesa domenica. Qua il tempo sta cambiando, è in arrivo il freddo, dovrebbe nevicare stanotte. Forse domenica ci sarà una bella discesa come quelle che ci sono a Wengen, proprio con le vere discese di Wengen dell'Auberon, sì. E speriamo che Inner peschi una giornata magica come quella del 2012, o anche Domme Paris, anche se questa non è la sua pista, lui preferisce decisamente chiusura. Avremo bisogno della terza rondine, che non vuol dire primavera, ma vorrebbe dire tanta roba in vista dei mondiali. Io vorrei chiederti un attimo di pazienza lì dalle nevi, perché proprio sì. Dalle nevi, subito dopo il traffico, vorrei chiederti per chiudere un commento cestistico, cioè su Hackett riabilitato. Capace con i piedi, perde qualche cosina, ritorna ai 15, perde di nuovo 9 centesimi, ma va in testa con 1.09.53 Elena Fanchini. Da aggiungere non c'è niente, penso che sia parlato anche abbastanza e ho parlato con chi dovevo parlare, ho chiarito col capitano qua, ho pian piano sto riallacciando i rapporti con gli altri compagni di squadra nazionale e se loro mi vorranno io ho dato la massima disponibilità e mi manca vestire quella maglia, voglio fare qualcosa per la nazionale, anche per mettermi alle spalle quello che è stato il periodo grigio di questi due anni e niente, c'è un europeo da preparare. Farò il meglio per offrire una buona pallacanestro durante l'anno e niente, spero in una convocazione, spero di esserci. Tutto qua. Questa è una vecchia voce di Danny Boy Hackett. La notizia fresca invece di ieri è che è stato graziato da Petrucci. Petrucci concesse la grazia, sconto di 3 mesi sulla squalifica. Il 25 gennaio sarà in campo a Cremona in campionato e dunque potrà tornare per la nazionale, poi vedremo. Giusto, sbagliato, Flavio Vanetti? Ma alla fine è giusto, perché come era giusto secondo me in ogni caso punire il giocatore per questa decisione sì. Che ha preso in estate, poi alla fine come secondo me dovrebbe succedere in tante cose c'è una sorta, non dico di buon senso, ma come dire di rivalutazione e rivisitazione della vicenda e anche alla luce degli significativi passi in avanti delle relazioni che sono state in questi mesi, era giusto a mio avviso arrivare a questo provvedimento. Ecco, grazie, sembra un po' una cosa come dire tribunale, non mi piace tanto quel termine, sembra quasi un condannato a morte. Sì, sconto di pena. Sconto di pena, sì, ecco, diciamo che forse bisogna parlare di pace fatta. Perché poi questo deve essere il senso anche dei nuovi rapporti da Daniel Nazionale. La Nazionale ha sicuramente bisogno di un giocatore come lui, e lui credo che abbia tutto da guadagnare una buona esperienza in azzurro. Qua non credo sia un discorso di banale e vieca convenienza reciproca, credo ci sia anche qualcosa di più, cioè forse anche un feeling ritrovato, forse era necessario passare attraverso questo passaggio un po' brusco, doloroso. Però credo che non abbia sbagliato la federazione a suo tempo ad avere una linea dura. Poi possiamo anche discutere sul fatto che questa legge sia un po' severa. D'altra parte non dimentichiamoci che i tempi, questo era anche un bel modo per tanti giocatori per ricolare la convocazione, per cui un puntello va messo, sì, per decidere come, quando. Guarda, viva Dio, una volta che in Italia viene osservata la legge anche in maniera, esatto. in maniera dura, non ci lamentiamo e prendiamo, dici bene tu, prendiamo per buona questo ravvedimento, questo accordo, questo accordo di buon senso tra persone. persone tra sportivi, quindi questo, esatto, questo può essere il senso. Grazie Flavio, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Flavio Vanetti. Allora, adesso, prima di Marco da Verona e Mario da Milano, voglio farvi sentire due cose fresche, cioè vigilia delle partite dell'Inter a Empoli, della Roma a Palermo domani. Hanno parlato Mancini e Garcia. Beh, sinceramente io non ho mai pensato a queste cose qua, insomma, perché poi ogni squadra, ogni situazione sono diverse e particolari. Questa è una situazione un po' più difficile e non pensiamo neanche che... Cioè, noi la faremo, cioè dobbiamo cercare di essere concentrati e siccome siamo nel gruppo di dietro non c'è permesso forare, insomma, quindi adesso è importante tenere bene il gruppo e cercare di fare dei punti, poi vediamo alla fine quello che potrà succedere. Penso che se facciamo il conto di tutti gli allenamenti che ha fatto Francesco nella sua vita, nella sua carriera di giocatore, allora sì, sarà pronto per domani, assolutamente. Mattia è un attaccante nostro. Mi sono già espresso su Mattia. Mattia è importantissimo, farà dei gol con noi e io conto su di lui tutta la seconda parte della stagione, non cambio discorso. Questi erano Mancini, come avete sentito l'Inter non può forare e Garcia destro ce l'ho e me lo tengo. Marco Verona, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dica. Faccio una considerazione. Come sicuramente sapete, siamo reduci da una partita umiliante da ieri sera in Coppa Italia. Lei è tifoso del Verona e sta parlando del 6-1 del Verona contro la Juventus. Sto parlando dell'unica squadra della città, naturalmente, una battuta questa. Gliela passo. Bene. No, il discorso è molto semplice. Prima stavate giustamente disquisendo sulla possibilità o meno di poter fare un'operazione di calcio mercato su Leo Messi con 200 milioni di euro sul piatto. Però a questo punto io mi domando, ma se effettivamente possono essere consentite operazioni di questo tipo, okay, dove chi può, tra virgolette, i pochi che possono, senza arrivare a quegli eccessi naturalmente, possono permettersi di portare di questa portata? Cioè, alla fine il calcio, lo sport, che fine fa? Cioè, guardi, io vi faccio un esempio, non è un caso che io parli di Hellas Verona, perché l'ultimo scudetto vinto da una squadra tra virgolette di periferia, sì, ok, è stato vinto nell'84-85 da noi, quando ancora il calcio aveva una dimensione umana. Poi dopo, da lì in poi, sono progressivamente con l'arrivo di Maradona, cioè degli investimenti devastanti la Samp, che ci hanno portato Marco, la Samp non era esattamente il cuore dell'impero. No, è vero, ha ragione, c'era la Samp, è stato probabilmente anche la Samp è stato l'ultimo esempio, sì. Noi siamo stati, ma sono passati quasi 30 anni da allora ad oggi e adesso stiamo parlando di fare investimenti. Io non ripeto, non mi interessano i 200 milioni di euro, ma Pogba ad esempio è quotato 100 milioni, ok? Bene, se qui mi viene in mente il fair play finanziario, di poter accedere a queste cifre, inevitabilmente quelli che faranno, disferranno, vinceranno, decideranno di non... saranno sempre quei 2-3 e questo per ogni singolo campionato. Marco, ma al di là, andiamo, ma è così al di là dei 200 permessi? Cioè questo è già avvenuto, questa è già realtà, Marco, perché i 200 milioni permessi possono essere un investimento che in pochissimi possono permettersi, come spiegava prima Marco Berinazzo, ma semplicemente perché hanno il credito e le potenzialità, la solvibilità per andare dalle banche e dire dammi 200, prendo Messi, con Messi faccio altri soldi. Però è già evidente ed è già un dato di fatto che nel calcio, prendiamo quello europeo, non allarghiamo troppo il panorama, nel campionato europeo ci sono delle super corazzate che corrono da sole, cioè il Bayern Monaco tra, non so, a marzo come l'anno scorso vincerà il campionato in Germania, non c'è discussione. Cioè il Paris Saint-Germain è un po' in crisi, ma vedrete che vincerà il campionato francese. In Inghilterra la situazione è un po' più fluida, un po' più complessa. In Spagna non si va fuori da Real e Barça. E lasciamo pure stare il campionato italiano, perché secondo me si è arrivati ad una oligarchia strettissima di squadre che non c'entrano niente con la, la dimensione del campionato che giocano, del campionato in cui sono inserite. Sono semplicemente delle, delle grandi corazzate, non dico delle macchine da soldi, ma forse lo dico, delle macchine da soldi. Mario Milano, buongiorno. Carlo, ciao. Dalla tua esperienza, parlando proprio di finanze, l'altro giorno, non so se solo le 24 ore Corriere, c'era un articolo, l'Inter finanziaria, ma io sono tifoso dagli anni 60. Dal 2010, dopo il triplete, la squadra è stata disfatta, compresi gli ingaggi altissimi. Ma io leggevo questi debiti, ma da dove saltano fuori? Che non c'è di più nessuno che guadagna 5, 6, 7, 8 sì, milioni di euro. Sì, però sono, sono debiti pregressi, cioè debiti, se erano lì prima e nessuno li paga, rimangono debiti, no? Che si accumulano da altri debiti. L'indomani del, della vittoria del triplete, non dimentichiamo che Moratti rinchiostrò e prolungò i contratti di molti, di quasi tutti quei, i protagonisti di quella vicenda per tantissimi soldi e per moltissimi anni. Dunque, i debiti che c'erano e si sono accumulati, alla fine, se nessuno poi li ha pagati, sono rimasti lì, no? E chi li paga? Toir? Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ragazzi, ci sentiamo domenica con Giovanni Capuano da questi microfoni dalle 17 alle 19. Ci sarò anch'io, naturalmente, come ogni domenica, e poi lunedì torno a tutti convocati. Ciao. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale. Si aspetta solo il fischio, eccolo!